del giorno. Mi siedo con voi a parlare del mondo. Vi racconto canzoni col passo rotondo. Vi suono i miei brani così come nascono e i vostri cuori li rifiniscono. Ogni giorno parto da lì e camminando pazzo di qui. Mi siedo con voi a parlare del mondo. Vi racconto canzoni col pazzo rotondo. Pazzo rotondo. Nessun filtro deformante. Ciò che ascoltate è un cammino costante. Cammino costante. Vi suono i miei brani così come nascono e i vostri cuori li rifiniscono. La nostra danza sul contracciato e semina amore per un verde prato. Ci lasciamo andare al battito lento. Non calcoliamo nessun movimento. Lasciamo andare al battito lento. Le nostre gambe impazziscono e le mie rime finiscono. Ogni pomeriggio alle 18 Gigi D'Agostino, il vostro biscotto. Sono Diego DJ del forum gigidagostino.com. Vorrei mandare un bacio a Veronica e dedicarle un tuo brano del reparto pelle d'oca. Ok, ti amo. Sono per tutto. È tutto quello che so. Spettacolo, frate. Bella Gigi. Il cammino di Gigi D'Agostino, reparto pelle d'oca. Sono un po' giù. Sono un po' giù. Mi manca la mia Giulia. Anche se so che tra un po' la rivedrò. Nella mia malinconia vorrei ascoltare Reparto pelle d'oca. Francesco. Yeah. Ciao Gigi. Hola puta. Sono Matteo da Genova. Per favore, ginnastica mentale. Ho capito molto passare da una condizione di sonno molto protratto a uno stato di veglia totale. Ginnastica mentale. Condizione di sonno molto protratto a uno stato di veglia totale. Ginnastica mentale. Dicembre del 1863 nasce Edvard Munch, pittore e incisore norvegese. Il numero di telefono per mandare i vostri sms è il seguente: 333-64-67-662. Capito come? Andata Elena Tanz. Siamo qui per dare informazioni. Portati avanti. Sabato 16 dicembre 2006, Gigi D'Agostino suona alla discoteca 24.000 baci. Latina. Ci vediamo lì. Sono un uomo diverso, sono un po' perso, ma questo è il mio universo. Oh. La gelosia è un abbaiare di cani che attira i ladri. Ehi! Hey. Karl Kraus. Ogni giorno, all'ora sesta, c'è la musica che pesta. Un attimo di attenzione. Dobbiamo cambiare canzone. Fino a quando il colore della pelle sarà più importante del colore degli occhi, ci saranno sempre le guerre. Bob Marley. Il cammino di Gigi D'Agostino. Musica che unisce. Sono Beppe da Bergamo. Ieri era il compleanno di mia sorella Valeria, di Palermo. 27 anni. 27 anni. Buon cammino, Valeria. Molte persone credono di pensare, ma in realtà stanno solo riorganizzando i loro pregiudizi. Williams James. Mezzo di esercitare sull'anima un'influenza diretta. Il colore è un tasto. L'occhio, il martelletto che lo colpisce. L'anima, lo strumento dalle mille corde. Kandinsky. Suoni e colori per bimbi e genitori. Questo è il cammino di Gigi D'Agostino. Vorremmo dedicare Marcia Lenta a Simone, che oggi compie gli anni. Asco, Pallas, grazie per tutte le risate, i viaggi, i momenti contenti vissuti insieme. Oggi Felicet sì, e Pianget nu. Che dici? Ti vogliamo bene. Dido, Alessandra, Roby, Chicco e Gifu. E al cammino del Gigi D'Agostino. Questo programma musical mental, ole, me gusta mucho macho, que cacho. Pubblicità. La vita è più bella quando suona la campanella. Il cammino di Gigi D'Agostino. Attimi di coincidenza con i tuoi sogni. Qualcosa di strano nell'aria, forse solo dentro me. Una cosa che col tempo varia, e non sta ad aspettare. So che il tempo è passato ed io ho vissuto sempre con te. Vedo in quel che ho provato ed è quello che vedo. Qualcuno dice storia, domandati perché, ricerca nella memoria quello che fu di te. La grandezza della vita sta nella grandezza del sogno in cui sei deciso di credere. Martin Luther King. Il tuo sogno è il tuo destino. Il cammino di Gigi D'Agostino. Lui è tutta la mia vita, ma non riesco più a dimostrarglielo e lui non vuole più sentire. Gigi, dillo tu ad Enzo che lo amo. Mara da Torino. Se volete mandare i vostri sms 333-64-67-662. Gigi D'Agostino. Tamarro Bizzarro. Tamarro Bizzarro. Hola Gigi. Hola pota. Vorrei ascoltare la canzone che dice Musical Mental. Musical Mental. E dedicarla ai miei amici di Francoforte. È forte. Perché c'è gusta mucho macho. E che cacio. Davi DJ del forum gigidagostino.com, che indossa sempre il tuo mono. Mica mi inquiete. Quiero ballare. Cosa. La mia mente è smusicosa.

musicale, mentale. Gigi D'Agostino, un DJ con le palle. Sì. È come se tutto fosse strano, aria. No, è come se tutto fosse strano, aria. Sulle mani. Il cammino di Gigi D'Agostino. Di Gigi D'Agostino. Benvenuti nel mondo che non c'è. È come se tutto fosse strano, aria. Sulle mani. È come se tutto fosse strano, aria. Sulle mani. Per Gigi D'Agostino. Aria. Per Gigi D'Agostino. Sulle mani. Per Gigi D'Agostino. Sì. Aria. Per Gigi D'Agostino. Sulle mani. Per Gigi D'Agostino. D'Agostino. Aria. Per Gigi D'Agostino. Sulle mani. Aria, per Gigi D'Agostino. Sì, aria. Sì, aria. Fermamosi un momento. Parte lento, violento. E vi... momento. Stiamo attenti, andiamo lenti. Se riparte maestro, corteadro, erburattino. Gigi D'Agostino. Sono Gino, detto il Bose Gatto. Volevo dedicare una canzone romantica alla mia ragazza mansueta. Ho fatto un sogno di quelli strani. Guardavo un cielo pieno di mani. Mani che cercano di costruire un mondo nuovo che possa unire. Mani che pensano, che vogliono dire, che non sognavo nel mio dormire, ma che era un sogno di quelli strani che mi donava il mio domani. Tutti i rumori che ci circondano fanno molto meno strepitio di noi stessi. Il vero rumore è l'eco che le cose hanno in noi. Un viaggio incontaminato. Un sentiero innamorato. La semplicità di un bambino. Il cammino di Gigi D'Agostino. We'll be right back. sono Gigi D'Agostino e ho qualche piccolo problema di equilibrio al suolo. Per la prima volta, lasciati andare. Capito come? Lasciati andare. Se per te la prima volta, lasciati andare. Capito come? Capito come? È il cammino del Gigi D'Agostino. Il cammino di Gigi D'Agostino è a vostra disposizione. 3-3-3-6-4-6-7-6-6-2. Ogni giorno, all'ora sesta, c'è la musica che pesta. Muovi un po' la testa. Non puoi scoprire nuovi oceani fino a quando non perderai di vista la spiaggia. Fuori dal mondo. Quell'attività che si ritiene immune dalla pubblicità, prima o poi si ritrova immune da ogni attività. Taradadadad. Sali in sella, è suonata la campanella. Gigi, i ricordi del passato, grazie alla tua musica, diventano le emozioni del presente. Gabri, in viaggio. We'll be right back.

Gigi D'Agostino, una musica infinita che racconta la vita. Non voglio difendermi da tutto questo. Mi lascerò travolgere anche dalla sensazione che mi devasterà il giorno che tu te ne andrai. Riesce ad amare solo chi non vuole difendersi dall'amore. Forse capito? Forse non capito. Per me amore vuol dire aver incontrato te. Gigi D'Agostino manda un abbraccio a tutti gli uomini e un pigia pigia a tutte le donne. Ci sentiamo domani. Grazie.